neve che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno il re sono io. Ormai la tempesta nel mio cuore irrompe già. Non la fermerà la mia volontà. Ho conservato ogni bugia per il mondo, la colpa è solo mia. Così non va, non sentirò un altro no. D'ora in poi lascerò che il cuore mi guidi un po'. Scorderò quel che so e da oggi cambierò. Resto qui, non andrò più via. Sono solo ormai, da oggi il freddo è casa mia. È un bene poter scappare un po'. Può sembrare un salto enorme, ma io l'affronterò. Non è un difetto, è una virtù, e non la fermerò mai più. Nessun ostacolo per me, perché d'ora in poi troverò la mia vera identità e vivrò, sì vivrò per sempre in libertà. Se è qui il posto mio, io lo scoprirò. Il potere si diffonde intorno a me. Il ghiaccio aumenta e copre ogni cosa accanto a sé. Un mio pensiero cristallizza la realtà. Il resto è storia ormai, che passa e se ne va. Io lo so, lo so, come il sole tramonterò. Perché poi all'alba sorgerò. Ecco qua la tempesta che non si fermerà. Da oggi il destino appartiene a me.